là dove il mare luccica e grida forte il vento. C'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie sangue. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore nella musica, s'alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene assai, tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie sangue in te, bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e incominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai che scioglie sangue. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai.